Da diversi anni ci stiamo occupando di nuovi sistemi di welfare per permettere alle persone, alle famiglie e alle coppie del nostro territorio di invertire la tendenza nazionale, cioè di iniziare a pensare a dei progetti di vita legati ai figli e al loro futuro, per permettere alle persone di guardare al futuro con più fiducia e con più ottimismo. Il tema di fare figli e quindi di mettere al mondo dei bambini è un indice, è un indicatore fortissimo della fiducia che le persone hanno nel futuro. Quando io sono diventata sindaca, noi avevamo un tasso di anzianità del 235%, cioè vuol dire che per ogni ragazzino con meno di 15 anni avevamo 2,35 over 65, e questo è un trend nazionale, nel paese è così, tant'è vero che parliamo di inverno demografico perché non si mettono più al mondo bambini. E la prima cosa che dovevamo capire è intanto perché e soprattutto quali sarebbero state le conseguenze nel medio e lungo termine di questo inverno demografico. Le conseguenze sono disastrose nel presente, diciamo qui e ora, perché appunto c'è una condizione di totale abbandono nei confronti delle famiglie e dei genitori, perché non ci sono sistemi di welfare adeguati, perché tutto gravita spesso sulle spalle delle madri e quindi delle donne, e perché non c'è un pensiero vero, strutturato a livello centrale, cioè a livello nazionale, su quali saranno i passi futuri da mettere in campo per permettere una nuova primavera, diciamo così, di questo paese. E poi l'altro tema invece è quello di lungo respiro, di lungo periodo, e cioè a dire: se noi avremo 2/3 della popolazione over 50 e non avremo nuove forze giovani e popolazione attiva in grado di mantenere i servizi, sanità pubblica, scuola pubblica, sistemi pensionistici, è chiaro che noi avremo i pilastri della nostra democrazia che li vedremo sgretolarsi piano piano, con una situazione di conflitto sociale e di grandissimo allargamento della forbice tra chi può permettersi i servizi e chi non può farlo, e non potendolo fare non ha più rete perché lo Stato non sarà più in grado di garantirla. Quindi gli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza sono un punto nel quale cerchiamo di far incontrare la scienza, e quindi da sociologi, statistici, psichiatri, psicanalisti, antropologi, che ci fanno un quadro e una fotografia della situazione attuale, che identificano le criticità e le cause di questo inverno demografico, e dall'altro incontrano la politica. La politica è intesa principalmente come amministratori locali, tantissimi sindaci di qualunque diciamo così appartenenza politica, perché questo è un tema che va affrontato proprio dal punto di vista istituzionale con una consapevolezza collettiva e condivisa, perché è un problema per tutto il paese, e trovando insieme delle soluzioni. Noi abbiamo lavorato tanto in questi anni sui nidi gratuiti per tutti senza liste d'attesa, rivendicando il principio e il valore che il nido è scuola, non è un babysitteraggio, ma è un'agenzia formativa, e in quanto tale deve essere considerata proprio come possibilità di avere nuovi strumenti per i bambini. E in questo senso, se il nido è scuola, come prevede la nostra Costituzione, deve essere libera e gratuita per tutti, a prescindere dal reddito, e senza liste d'attesa, perché tutti i bambini devono poter essere messi nelle condizioni di avere quegli strumenti di crescita, e nello stesso tempo le famiglie devono poter contare su questo prezioso strumento di welfare, perché altrimenti molto spesso le donne lavorano per pagare il nido ai propri bambini e spesso rinunciano al lavoro perché dicono: se per andare al lavoro alla fine riesco soltanto a pagare le spese per il nido di mio figlio, allora con mio figlio ci sto io. E questo significa che se noi lasciamo una donna fuori dal mondo del lavoro per 3 anni, poi non ci rientra praticamente più. Quindi le misure che abbiamo messo in campo sono: da un lato nidi gratuiti per tutti senza liste d'attesa, dall'altro il servizio delle ostetriche a casa gratuitamente, e non le assistenti materne preparate in 6 mesi o in 3 mesi con dei corsi online, ma ostetriche che sono formate, abbiamo delle competenze e delle professionalità straordinarie, che vanno a casa gratuitamente delle neomamme e le aiutano nel maternage, perché la nascita di un figlio, il periodo successivo alla nascita di un figlio, è molto più complesso e molto più impattante nella vita delle donne che tutta la gravidanza e il parto. Quindi avere qualcuno accanto è fondamentale per riuscire a vivere serenamente quella fase della vita. Ma non solo, abbiamo anche previsto negli ultimi 7 anni degli sgravi per le imprese che assumono neomamme con figli entro 3 anni e che assumono over 50 o under 30. Questo proprio per riuscire a utilizzare le leve fiscali, le poche leve fiscali che ha in mano il comune, per esempio quella dell'IMU per quota comunale. Noi annulliamo l'IMU per le imprese che assumono queste tipologie di lavoratori e lavoratrici. Anche questo è un segnale che, se noi riuscissimo a estendere a livello nazionale, darebbe nuova linfa alle assunzioni, oltre che ovviamente a assunzioni di quelle categorie, di quelle fasce che nel mondo del lavoro sono sempre più penalizzate. E poi perché dell'adolescenza, dell'infanzia e dell'adolescenza? Perché anche sul tema educativo, della qualità educativa, della qualità della scuola e della qualità del sostegno agli adolescenti, che in questo momento stanno vivendo situazioni molto critiche, molto di più rispetto a quanto accadeva prima della pandemia, noi abbiamo bisogno di concentrarci moltissimo su di loro per essere nelle condizioni di creare una rete pubblica in grado di far crescere adulti sereni, realizzati ed evoluti. Tra i panel previsti in questi 3 giorni si farà un focus anche sulle diverse tipologie di famiglie, non solo quella, diciamo, tradizionale. Assolutamente proprio così, e parliamo di diritti dei bambini. Come sapete, io ho da subito, mi sono molto esposta riconoscendo i figli di 2 papà, successivamente poi di 2 mamme, di tutte le famiglie arcobaleno, perché il tema principale è proprio quello della tutela dei bambini e dei loro diritti. E in questo comune ci siamo sempre adoperati per fare in modo che tutti avessero perfettamente il riconoscimento che meritano. E lo dico perché invece le posizioni che si sono tenute anche a livello di Stato centrale sono posizioni che creano enormi problemi per le famiglie, che creano enorme precarietà, aggiungono precarietà alla precarietà che già esiste dal punto di vista delle congiunture economico-sociali, che ricadono esclusivamente sui bambini. Credo che sia un atto profondamente sbagliato, e quindi ci siamo assunti la responsabilità di continuare a trascrivere tutti i figli delle famiglie arcobaleno, perché da Costituzione i bambini hanno bisogno della massima protezione e soprattutto di una famiglia, e hanno diritto ad avere 2 genitori. Il fatto che ci sia una procedura più lunga, articolata, complessa, che per anni non permette a un bambino di avere 2 genitori, ma soltanto uno riconosciuto biologicamente, e l'altro debba mettersi nel ginepraio delle adozioni per anni, lasciando questo bimbo scoperto dalla possibilità di avere una tutela completa di 2 genitori, credo che sia enormemente lesivo dei loro diritti. Perciò i bambini stanno al centro. A me non interessa come sono venuti al mondo, non è importante come sono venuti al mondo, se attraverso GPA, se attraverso procreazione medicalmente assistita. Quello che importa, e lo dico da amministratore pubblico che ha la responsabilità ed è la massima autorità sanitaria del proprio territorio, quello che conta è che questi bambini esistono, sono qui adesso, e il nostro obiettivo è quello di garantire loro la massima tutela possibile.